E da un po' di giorni mi faceva notare qualcuno che ci stanno accompagnando delle letture veramente belle e con dei salmi responsoriali ricchi. Quando uno mi dice questo, fa la felicità mia, perché vuol dire che primo ha tra le mani questi testi col messalino, secondo li legge e li gusta e li prega. Ci ha accompagnato Giacomo, adesso ci sta accompagnando Paolo nella seconda lettera a Timoteo. Questa seconda lettera è l'ultima che Paolo scrive prima della sua morte. Si trova prigioniero a Roma, dove poi subirà il taglio della testa. E questa lettera che manda al suo discepolo, nonché, diciamo, segretario, luogotenente, Timoteo, contiene delle parole veramente toccanti, cominciando dall'inizio. Carissimo, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù. Amici, questa parola ti scongiuro dice tutta l'ansia, il desiderio del suo cuore, e lo fa solennemente alla presenza di Dio e di Gesù Cristo che verrà a giudicare i vivi e i morti. Di che cosa lo scongiura? Annunzia la parola. E poi usa dei verbi stringenti. Insisti al momento opportuno e al momento non opportuno. Ormai lui è alla fine, gli dice coraggio, forza, dobbiamo darci dentro. Insisti. Ammonisci. Rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento, perché verrà un giorno in cui non sarà più possibile ascoltare la vera parola, perché gli uomini si circonderanno di falsi maestri, gente che gli dice quello che loro vogliono sentirsi dire. Tu non andar dietro alle favole. Vigila, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo. Poi mi fermo qui, anche se lui va avanti e parla di se stesso, ma mi premeva sottolineare questa spinta decisiva che Paolo dice a noi stessi, non solo a Timoteo. Io riflettevo attentamente, ho gustato tanto, tanto questa, veramente per me la liturgia è la madre di tutte le preghiere. Mi auguro anche a tutti voi di gustare la parola di Dio, ma anche di gustare i verbi, le parole di ogni orazione. E riflettevo e dicevo, come potremo annunciare in questo modo così stringente la parola di Dio alla gente? E mi è venuta un pensiero che vi condivido, è un mio pensiero, quindi non è Vangelo questo, però mi sembrava venisse dalla sapienza. Noi riusciremo ad annunciare bene la parola di Dio se avremo un carattere evangelico. Il carattere, amici, cioè l'espressione della nostra personalità. Provate a pensare come, da come noi ci comportiamo, come noi reagiamo, possiamo o costruire o demolire. Quante volte abbiamo fatto del bene e poi una parola detta male, uno scatto di cui poi ci pentiamo, butta per aria tutto. Oppure ci comportiamo in maniera non corretta secondo il Vangelo e non ci rendiamo credibili, amici. Il santo annuncia con la sua vita il Vangelo. Il peccatore distrugge. Guardate gli scandali che avvengono nella Chiesa a tanti livelli. Veramente spezzano la Chiesa davanti al mondo. Ma così anche in casa nostra. I nostri figli, anche se non vanno a messa, vi spiano. Spiano noi preti. E a seconda di come ci comportiamo o nella santità del Vangelo, dico carattere nel senso di personalità, se abbiamo un carattere, una personalità evangelica, veramente lasciamo il segno. Se invece siamo contro testimonianza, guai a noi.